Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Completiamo con oggi il racconto tramite le voci, le storie, le testimonianze, racconto intitolato, citando il Vangelo di Matteo, ero straniero e mi avete accolto. Si tratta di un video che potete verificare, condividere, vedere sul sito caritaspadova.it. Ben ritrovati ancora da Mirko Cavallin, prosegue dunque il nostro percorso settimanale all'interno delle attività della Caritas. Tra queste, quella di diciamo più di attualità è quella dell'accoglienza dei profughi che appunto si sta facendo già da tempo in forma micro, in microaccoglienza, in comunità parrocchiale o addirittura in famiglie. Già la settimana scorsa abbiamo sentito alcune esperienze, adesso col suono delle campane sentiamo la signora Carla. La sensibilità delle persone è stata un po' risvegliata, diciamo, proprio dal parroco e dalla realtà della Caritas locale. Cioè i giovani cristiani presenti nel campo hanno cominciato a frequentare la nostra Santa Messa e per facilitare la loro partecipazione in entrambe le Sante Messe viene consegnato anche il Vangelo in inglese e uno di loro a turno lo legge per tutti. Da lì è nata un po' il desiderio di stare con loro, fuori dalla Messa c'è sempre un gruppetto di persone che dialoga, chiede notizie su come stanno, su come vivono la giornata, su quali difficoltà possono incontrare, e questa attenzione dimostra un'accoglienza che sta nascendo. Il desiderio dell'uomo è sempre quello di incontrare. My name is Adam. Mi chiamo Adam, vengo dal Gambia e ho 23 anni. Sono un immigrato perché i rifugiati sono persone che scappano da una guerra. Nel mio paese in realtà non c'è una guerra, ma abbiamo una dittatura. Profugo è chiunque fuga da una situazione difficile, complicata del proprio paese. Il richiedente asilo è un cittadino straniero che ha fatto la domanda di protezione presso la commissione territoriale. Cerchiamo di fare in modo che questo tempo di attesa dei loro documenti, se arriveranno, non sia un'attesa vuota dove loro trascorrono seduti a far niente. Cerchiamo proprio di fare in modo di attivare tutta una serie di progettualità, di attività, di iniziative che hanno lo scopo di tirar fuori da dentro di loro le loro capacità, le loro attitudini. Era la voce di Adriana, una delle volontarie appunto che presta la sua opera anche per quanto riguarda le informazioni rivolte a queste persone. Percorso non sempre facile. Sentiamo ora la testimonianza di Abdullaya. Se j'ai gagné ici des papiers, si j'ai trouvé. Se riuscissi ad avere i documenti, se riuscissi a trovare un lavoro in Italia, mi piacerebbe fare il meccanico. Lo facevo già in Senegal quando ero piccolo e se la fortuna mi assiste vorrei continuare a farlo anche qui in Europa. Sono giovani come i giovani italiani che hanno bisogno di essere accolti, di essere gratificati, di essere capiti, di essere ascoltati. E hanno bisogno di avere delle opportunità. I always wanted to be a nurse. Ho sempre voluto fare l'infermiere e lavorare in ospedale, la voce di Lusahari dalla Nigeria. Prima di tutto devo imparare però a parlare bene l'italiano. After that I think I will have to go for school. Vorrei anche andare a scuola poi in modo da perfezionare le competenze e lavorare in ospedale. Since I come here, I never see two people even. Racconta Adam, da quando sono qui non ho visto nessuno litigare. E da quando sono arrivato in Italia vivo da persona libera. Mangio buon cibo, alloggio in una bella casa. Spero proprio che la mia vita cambi adesso che sono in Italia. Yeah, freedom for me is to have a good set of mind. Dice Aladdin: per me la libertà è star bene d'animo, avere intorno persone a cui piaci, vivere in un paese dove i diritti civili vengono rispettati, avere un lavoro ed essere indipendente. Spero sia possibile diffondere una consapevolezza. Non dovrebbe esistere nessuna segregazione né differenze. Questo, l'Italia non è il mio paese, ma se sono qui è per un buon motivo. Non sono qui per fare qualcosa che non sia giusto. Sono qui per andare d'accordo con la gente e vivere in pace con tutti. Live in peace with everybody. You know, if I have e se in qualche modo posso portare qualche beneficio al paese, mi impegnerò. E queste dunque le voci, ma potete, ripeto, vedere anche i loro volti, gli sguardi. Sono alcuni dei profughi arrivati dall'Africa più profonda, storie diverse. Appunto abbiamo sentito citare il Senegal, il Gambia, piuttosto che la Nigeria. Alcuni profughi o richiedenti asilo ospitati proprio nel Padovano. Il progetto appunto è Ero straniero, mi avete accolto, ed è anche il titolo di questo video realizzato dalla Caritas di Padova nel mese scorso. Ripeto, lo potete visionare e anche condividere come esperienza positiva tramite il sito caritaspadova.it. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.